Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi stavo abituando a vedere sempre le stesse persone e finalmente un gradito ritorno. Lei, la ragazza che aveva avuto un fidanzato compulsivo che la costringeva a una sorta di terribile quanto sordido rapporto a tre. Lui, lei e un kiwi. Un rapporto amoroso fallito semplicemente perché lui faceva una dieta di kiwi talmente ossessiva, talmente quotidiana, talmente incessante che lei alla fine ha detto scegli me o scegli il kiwi, e lui ha scelto il kiwi. E adesso di fronte a me, dopo mesi, la ragazza del kiwi, sconsolata, disperata, ma con quel velo di tristezza che la rende affascinante. Hai avuto un periodo brutto? Sì, abbastanza. È veramente il mio periodo sfigato. Sei fortunata, pensate. Non hai avuto nessuna malattia. No, non ho avuto nessuna nessun malattia incidente e, non mortale. E non è morto nessuno, allora. Non ho avuto nessun incidente mortale. Però è come se tu avessi tutti i pianeti contro. Perché ti tormenti le unghie? Perché allora mi hanno derubato 3 volte negli ultime 3 settimane. Si dice che eri molto ricca. No. Che ti hanno rubato? 2 motorini. Cioè uno, allora, me l'hanno, uno te ne hanno rubato. Uno me l'hanno rubato. E ne hai ricomprato. Ne ho ricomprato uno bruttissimo. E mi hanno rubato anche quello dopo 2 settimane che lo avevo. Ma lo sai, i ladri motorini c'è sempre la seconda botta. Te lo rubano, ti spiano, ti seguono. Infatti mi hanno spiato. Certo, tu ne ricompri subito un altro, te lo fregano, è sicura quella botta. Ma me l'hanno derubato in mezz'ora mentre pranzavo. Cioè mentre avevo portato su il pranzo. Ma tu adesso ne compri un altro, te lo rubano. Perché... Non lo so, penso di comprarmi un ciao. A questo punto lo sanno, tu hai bisogno di un motorino. Mi comprerò un ciao e magari quello non me lo ruberanno. No, rubano tutto. Però oggi, anche le biciclette. Mi sono fatta prestare la macchina da mia madre, siccome a questo punto sono senza mezzi. Te l'hanno rubata? No, mi hanno bucato una ruota in un parcheggio che era assolutamente tagliata dignitoso. Col coltello? Sì. Allora aspetta, calma. Allora. Era un parcheggio assolutamente dignitoso. Avevi impedito un'altra macchina? No. Avevi occupato un passaggio, passo carrabile? No. E allora tu c'hai un persecutore che ti ruba i motorini e taglia le ruote. Ma non era, era accanto al lavoro. Quindi vabbè, sempre nello stesso posto, nessuno... ferma, nella stessa no, area. No, prima 2 volte a casa, poi questa volta al lavoro. E non ci può essere qualcuno che ti perseguita e ti fa questi dispetti. Infatti, sono terrorizzata. Oh, ecco, allora, siamo arrivati a un punto. Non è un ladro, ma è un persecutore, uno stalker. Però poi il giorno dopo, cioè ho riparato la ruota, l'ho portata a casa e il giorno dopo me l'hanno rimossa col carro attrezzi. Perché non ho nemmeno capito quale fosse il problema del parcheggio. Quindi forse sono per metà perseguitata da qualcuno e per metà perseguitata dal destino. Anche il carro attrezzi può essere sempre la stessa mano che ha qualcuno chiamato. Che ha chiamato. Però ho Saturno. Perché da solo non si muovono i carri attrezzi. Ho Saturno contro. Ma secondo me c'è contro qualcun altro. Questo guarda bene la tua vita personale. Infatti io volevo sapere a chi hai fatto. Beh, secondo me come si fa? Allora, si chiama una fattucchiera? No, si ragiona sulle persone. Si fa uno screening della propria esistenza negli ultimi mesi. C'è qualcuno che hai maltrattato? No. Che hai mortificato? No. Beh, mesi fa mi raccontasti di una persona che ti ha offerto un lavoro chiedendoti in cambio l'intimidazione e te lo mandasti a quel paese. Quanti mesi fa era? Era maggio. Quindi la vendetta è un piatto che si mangia freddo. Quello che hai sentito per radio, che ha raccontato la sua storia, com'era la storia? Ti aveva chiesto un lavoro? Mi aveva chiesto un lavoro, ma in realtà... Voleva te. Voleva me, poi aveva detto che in realtà il lavoro non era, era soltanto un pretesto. Voleva affondare nelle tue forme procaci. Sì, quali forme? Perché non mangi un po'? No, ma io mangio. Ma sei magrolina. Mangio. Guarda, hai 2 palmi scarsi. di dobbiamo fondoschiena. Dobbiamo arrivare a tre. Tre palmi. Una donna meno di tre palmi non può essere. Va bene. Vedi come galleggi nel sedile di un treno. Invece sono delle signore che entrano incastrate. Tra l'altro questo e poi ti dicono, tra l'altro, per favore. Questo treno non avevo nemmeno trovato i biglietti. Ho dovuto comprare due biglietti diversi. Tra un po' dovrò cambiare posto. Perché ho comprato un biglietto per una tratta e un biglietto per una seconda tratta. Ma ormai mi conoscono, sono di casa, metterò una parola buona, sto qui tutto il giorno. Poi ci sono delle signore, rimangono incastrate nel sedile. Dico, per favore, buon uomo, mi dà una mano. Le tiri fuori e senti il sedile che toglie il vuoto d'aria, sarà creato. Ma sono diventati effettivamente più piccoli questi sedili? No, sono almeno sui quattro palmi c'entrano proprio belli in casa. Un palmettino e mezzo, due. Sì, viaggi più comodo. Detto questo signore ti offrì un lavoro. Sì. In realtà tu capisti che era un escamotage per ottenere, ottenere te. E tu gliel'hai tu gli hai mandato quella lettera melenza suggerita alla tua amica? Sì, rimanga fra noi una bella amicizia, sì. Figura, bella sì. Amicizia, sta ancora sbattendo la testa sul muro. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. È nella tipica fase di transizione di una donna che si è lasciata alle spalle un grande amore, è in attesa, ma non spasmodica, non compulsiva, dell'amore che verrà e nel frattempo si sente oggetto delle attenzioni di altri uomini. Qualcuno la incontra per strada e qualcuno la guarda in maniera incessante e fastidiosa dal palazzo di fronte, occhieggiando dietro il vetro della finestra. Sì, però insomma non penso di averlo mortificato tal punto da indicarsi così, ma poi ti sei negata. Ho capito, ma non vieni 4 mesi dopo. Eh no, lui ti sta sorvegliando da 4 mesi. Guarda tutto nei social network, dove vai, che fai, quando entri. Ma lui non esci. Ha Facebook. Te lo dici a te, se la fa. Quando ti alzi la mattina, quando va a letto la sera. Sai che nei social... Ho avuto anche un caso di stalkeraggio da parte del vicino davanti. Di casa? Sì. Cioè, sono dovuta stare tutto il tempo con le tapparelle chiuse. Per cosa faceva? Perché mi osservava, mettendosi seminudo davanti alla finestra. Quello di rimpettaio? Sì. Quanti anni aveva? Penso una quarantina. E poi cosa faceva? Si esibiva nudo, mi guardava. Ma che sai che era a favore tuo e non era in generale? No, era a favore mio perché mi guardava. E poi io non prendo a casa mia il telefono, quindi sto sempre alla finestra a chiamare. E lui si riaffacciava e ma mi tutto saltava. Nudo completamente? Non lo so, perché a un certo punto la finestra copre il sotto. E dal davanzale non vedevi se cosa c'era sotto? No, poi non vedevi baluginare. Cercavo di non guardare per non dare, insomma, false illusioni. E sopra nudo, sempre nudo? Sempre nudo. Vabbè, poi però mi dava, d'estate tanti mi uomini. Mi dava cenno di incontrarci. Poi cioè con la mano faceva un segnale verso il basso così? No, mi indicava il bar. Poi un giorno l'ho incontrato al bar, mi ha detto che gli si era rotto il congelatore. E se poteva darmi del tipo del pesce, le cose che aveva in congelatore. Signori, non so dove mette sto pesce, me lo prende lei, ma dai. No, anche il tacchino. Il tira al collo però il tacchino. Il collo glielo tira lei. Dai. E quindi gli avevo detto sì, vabbè, in caso suona scendo e me le prendo, però me ne regali. Ma tu non vedi, voi donne, poi vi lamentate. Far regalare. Non gli si dà spago. Poi lui non ha più, cioè comunque non tu ha più. Tu devi dire, scusi signore, io se lo compri il frigo, non metto roba di estranea nel mio frigo. Vabbè, un po' di pesce buono non è che... Così gli hai detto, un po' di pesce buono no, non fa male. Vabbè, andate a cercare, scusa. Vabbè, quello che è, un po' di succo. Vedi, siete talmente... Ma era anche un bel ragazzo, cioè un ragazzo... Siete talmente vanesi e talmente assatanate di ma non è persone vero, che vi considerino. Ma non è vero. A un uomo che dici, prima era bello, questo si è mostrato nudo per settimane e gli rivolge anche la parola. Ti dice, vorrei infilare il pesce da qualche parte, dove lo metto? Dici, sì, me lo dia, se è un bel pesce me lo prendo. Cioè, mi sembra che, cioè, che altro devi dirgli? Ma la cosa drammatica è che io a un certo punto ho cominciato ad avere paura, quindi ho chiamato, siccome il mio fidanzato non abita nella mia città, ho cominciato a chiamare a ripetizione vari amici nella mia città che facessero da figuranti e che si mettessero in finestra a fumare delle sigarette. Ma non serve niente, lo stalker in maniera che vedesse che comunque avevo... Beh, mica geloso. Lo stalker è un animale e lo stalker è convinto, lo sai, nella sua follia. È l'erotomania. L'erotomane, tu pensi a un maniaco sessuale? No, l'erotomane è una persona che è convinta, che allucina dei personaggi e pensa che questi personaggi gli mandano dei segnali fra di loro segreti, c'è un'intesa. Ah. Lui è convinto che tu dessi a lui dei segnali d'intesa. È una follia, nasce da una signora che è convinta che il principe d'Inghilterra era innamorato di lei. Si metteva tutti i giorni davanti alla reggia e guardava come apriva vedeva una tendina e c'è quello che mi manda un segnale. Lui. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Io ho avuto delle erotomani che pensavano che quello che dicesse la radio era rivolto a loro, io nemmeno le conoscevo. Follie. Infatti, probabilmente qualcuno mi ha bucato anche le ruote della macchina. Ecco. Magari lui è al corrente di tutto. Lui è convinto. No, ma lui, in lui è convinto adesso... che in realtà tu lo ami. E per una ragione, diciamo, di pudibonda o sociale, non gli dai sparo. Poi è convinto che tu gli mandi dei messaggi. Però no, però c'è stata una grande svolta. Nel senso, questo è successo durante l'estate, perché lui era da solo. Ma cosa succede? Io 2 settimane fa vado al bar sotto casa, lo vedo entrare. Con la fidanzata? No. Con la moglie? No. Col figlio? No. Sì. Con un uomo? Sì, con un neonato. Vabbè, che vuol dire? Cioè, con la, come si chiama, l'inglesina. Con la carrozzina così e c'era il neonato. Beh, tipico, capito? Infatti lui era sparito. Si vede che lei era in vacanza. Allora, devi sapere che quando le mogli sono incinta e quindi hanno un momento di normale ritrosia all'atto sessuale, gli uomini improvvisamente si sentono dei rubacuori e si guardano intorno. Ma è una cosa terribile. Succede sempre. Ma è una cosa orrenda. Ma lo sapevi questo? Quando le mogli sono incinte, i mariti hanno più avventure il periodo che la moglie è incinta. È così, sempre. È orribile. Ma poi perché la moglie non la riesco più a vedere come oggetto di desiderio, la vedo come la grande incubatrice del figlio. E quindi gli uomini più assatanati sono quelli con le mogli incinte. Ma la cosa orribile è che vieni a farti la storia con la ragazza che abita al palazzo davanti con la moglie. Ma quanto incinta. Gli uomini abbiano un illimitato fiducia nelle loro capacità di essere splendidi, lui è convinto che è lui che fa un favore a te, purtroppo. È questo. Tu hai cominciato a conoscere gli uomini, sono belli infami. Vivono in un delirio continuo l'uomo, cioè soltanto lui. L'uomo non capisce che la donna può anche fargli schifo. Lui pensa che no, ma come? Io mi faccio vedere nudo, magari è anche figo, è bello. Ma sì. Ah, vedi, è convinto. Passa la vita in palestra, dice, gli faccio vedere questi muscolacci gonfiati. Quest'amore, una ragazzetta, la vedo lì sola, che vuole. Comunque devo cambiare quartiere. No, ma tanto sei, capisci? Sei tu la marmellata dove vanno i mosconi, sei tu la calamita dove si attaccano i bulloni. È così, dipende da te, dipende. Per fortuna ritorno alla realtà fatta di fatti, non soltanto di pulsioni, desideri, sospensioni amorose. E nessuno meglio mi ci riporta che il nostro viaggiatore. L'ho ripreso questa volta, ma per puro caso, in una tratta di treno che non era quella consueta, dove andavo io a cercarlo. Forse lui sta cercando me. Comunque ha un bel gruzzoletto di racconti. Molti mi stanno scrivendo, chiedendomi informazione su questo signore, chi è il viaggiatore, ma è vero, è finto, dove lo incontri? Può essere che lui abbia attraversato tutti questi mondi e conosciuto tutte queste persone? Ma che sia vero, sono convinto, vedendolo in carne ed ossa. Il suo racconto è verosimile, ci sono dei riscontri oggettivi nella realtà. Che possa un uomo soltanto aver viaggiato tanto, attraversato tanti mondi e conosciuto tante persone, ci sta pure. Che lo racconti a me in un treno, questa è veramente l'unica di tutta questa equazione vicenda che non mi convince fino in fondo. Borneo, lì c'era veramente qualcosa di pulito, di bello, di sentimentale, di... Cioè, io mano per mano qui in Europa non ci vado, ma non perché mi vergogno,

in un'altra barra. Ah, quindi non l'hanno, diciamo, l'hanno rimessa a posto? No, no, l'hanno rimessa in un'altra. Ma l'hai fatta una foto? No. Non ci hai pensato? Non ci ho pensato. Ma voi avete chiesto come è potuta succedere una cosa del genere? Sì, no, perché... ci avevano avvisato prima. Ah, te l'aveva detto prima di aprire la barra? Sì, il medico legale, sì. E cosa t'aveva detto? Cosa t'aveva detto? Ha detto preparatevi perché potrebbe essere ancora intatta. Come faceva a saperlo? Perché forse era quel terreno. Perché beh, l'esperienza evidentemente è successo. Poi con i bambini spesso succede. Ah, perché era molto giovane, vedi? Sì, aveva 3 anni. Ah, proprio una bambinella piccola, vedi? Sì, piccola. No, però poi alla fine ho detto evidentemente in questa occasione, perché era morto mio padre, e quindi è venuta lei a prenderlo sicuramente, ha voluto che in quell'occasione la conoscesse. Beh, io devo scendere, ragazze, vi saluto, buon viaggio, continuate. Grazie, ciao. Ciao, divertitevi, ciao. No, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Attribuisco queste riflessioni, questi pensieri a un'epoca che ormai non mi appartiene più, appartiene al mio passato, appartiene a un'era arcaica dalla quale mi sento uscito. Non c'è più la preoccupazione per il mantenimento della propria spoglia carnale, ma c'è piuttosto la preoccupazione di un raggiungimento certificato e verificabile dell'immortalità del proprio pensiero. E nulla è meglio per confermare questa tensione che compulsivamente, costantemente, quotidianamente lasciare tracce di sé nei propri social network. Come accade per le nostre carni, oggi noi siamo perfetti imbalsamatori della nostra anima. Più esattamente siamo asceti inconsapevoli della quotidiana ansia di salvarla. Per ogni nostro ricordo abbiamo memoria espandibile, sappiamo organizzare le nostre emozioni passate, inossidabili files di foto digitali, di filmati autoprodotti, di brandelli di pensiero trasformati in messaggi brevi. La rete è capace di far tornare a galla il cadavere di qualsiasi emozione vi avevamo buttato dentro, come un sasso al collo, sperando che restasse inabissata per sempre. Saranno milioni di frasi scritte, di umori descritti, di amicamenti, di turpitudini e vaghezze che nemmeno ricorderemo di avere pensato. È un passaggio che richiederà tempi lunghi e dovrà fare i conti con le convinzioni religiose e le sensibilità comuni. Ma mi piace pensare che ci sentiremo meno fugaci su questa terra quando esisterà un sistema di archiviazione razionale dell'ombra digitale di ogni vivente, a iniziare dai nuovi nati. Questa deriva tecnologica, anche nei territori più insondabili dell'umanità, non deve scandalizzarci. Forse qualcosa del genere sarà la forma più coerente con la civiltà digitale per conservare memoria, per appagare la nostalgia, per trovare conforto al dolore di una scomparsa. Esiste una regola di comportamento civile a bordo di un treno? Sicuramente. Non occorre scriverla sui cartelli. È basilare. Non zozzare e lordare il bagno, anche se c'è il signore che gira con la borsettina al collo e poi te lo pulisce. Pensa anche lui è un essere umano. Non urlare al telefono per far sentire a tutti quali sono i tuoi fantastici affari. E soprattutto cerca, se possibile, quando viaggi in treno, di essere pulito, di non mangiare panini con la cipolla, di non fare quelle cose sgradevoli tipo levarti le scarpe. In alcune tratte di alcuni treni italiani è gioco forza, ci si levi subito le scarpe, in altri treni no. È brutto vedere le scarpe che scivolano sotto i sedili e quei calzini puzzolenti, ma anche le signore che hanno magari delle belle calze civettuole, non è proprio il massimo. E soprattutto è sgradevole quando quei piedini li appoggiano sul sedile di fronte. Ogni schifezza voi mettete su un sedile del treno sarà una schifezza che comunque entrerà in contatto con i pantaloni, con la gonna, col vestito di un altro passeggero. Beh, questo molte volte è il primo sintomo di un focolaio di litigi in treno ai quali sono stato molto spesso testimone. La persona appoggia i piedi sul sedile di fronte come se il treno fosse il divano di casa sua. Arriva un'altra persona e dice: io qua non mi ci siedo perché ci hai messo i tuoi zozzi schifosi puzzolenti piedaggi. Allora, i viaggiatori devono tenere un comportamento adeguato, va bene? Quindi la pulizia e l'igiene sono la prima cosa, per cui nessuno può viaggiare quando uno arriva e si trova quella che tira giù le scarpe e uno si deve sedere lì. Ha pienamente ragione. Oh, da questo me la fritto la ragione. Da questo punto di più di questo non le posso dare. Ma ovvio, ma lo so. E c'ho anche la scomodità di dovermi alzare e andare nel vagone nuovo e trasportandomi i bagagli, sottolineo questo, no? Perché la signora ha dovuto fare i suoi porci comodi, ha dovuto fare la maleducata. Perché se la signora mi avesse detto scusi, va bene? Chiaramente lì per lì non sarebbe successo niente. Questi signori sono testimoni, io non li sto chiamando a testimoni perché non voglio intromettere nessuno, va bene? Però se viene la polizia, io chiederò alla polizia di interrogarli per sentire cosa sono andati a fare. Perché non permetto alla signora di darmi di matta perché rivendico il mio diritto. Va bene? Che è il diritto. Se vuole querelare la signora, questa è una cosa sua. La signora non ha avuto neppure il fegato di dare i documenti. Questi sono i miei documenti. La signora non ha manco si fichi sui documenti. L'ho vista io e l'hanno vista loro, abbia pazienza, perché se no lo sa tutto il mondo quello che succede. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Chi rappresenta l'autorità a bordo del treno? L'autorità rappresentata da chi porta la divisa, chi ha il cappello rosso, chi ha la giacca con i galloni, sono i controllori, sono quelli che ti chiedono il biglietto, sono quelli che dovrebbero avere potere assoluto sulle persone che viaggiano lungo il treno. Ma non sempre così. In un totale radicale e diffuso calo di autorevolezza, anche i signori col cappello rosso molte volte sono bersaglio della irascibile riottosità ad ogni regola dei viaggiatori. Ascolti, parlo io. Lei sta col tosto, ok? Già le sta facendo una cortesia di continuare a viaggiare, perché se il capotreno, nonostante lei adesso c'è il biglietto, ha pagato la multa, dice di farla scendere, io la faccio scendere, nonostante ha pagato la multa. Lei deve saper parlare, non deve offendere, perché il capotreno sa lavorare, è lei che è in torto, è lei che non sa venire il biglietto. Non alza la voce. No, lei non mi dici di alzare la voce, perché sto ascoltando le stupidaggini che sta dicendo lei. Con i miei soldi vado dove voglio. Allora, con i suoi soldi certamente non compra l'educazione, perché l'educazione purtroppo con i soldi non se la compra. Sia rispettoso con la persona, ha capito? Deve essere rispettoso, in Italia, esiste l'educazione. Se il suo paese si comporta come vuoi. Io ho un po' paura, scusa, perché. No, non deve stare tranquilla, signora, è soltanto una questione di educazione che deve imparare a suo marito. Il treno va. Oh, che bello! Oggi, per la posta del cuore o per l'audiolettera, chiamatela come volete, mi scrive una signora francese. Una signora ci ascolta comunque la radio, che segue in modo particolare questa appendice del mio viaggio settimanale e ha qualche quesito da pormi. Però mi investe di un ruolo che in realtà non ho, di una conoscenza della quale non posso farmi carico e anche di una responsabilità territoriale che assolutamente non sento come mia. Vorrebbe che le rispondessi sulle eterne e indicibili domande che fanno i francesi sugli uomini e le donne italiane. Caro Gianluca, sono francese e in anticipo mi scuso per gli errori che farò. Ho 44 anni e sono parigina, ma italiana di cuore, anche se non ho nessuna famiglia in Italia. E quasi sempre quando mi capita di parlare con italiani si fanno certi discorsi sulle differenze, perché si sa, siamo vicini, italiani e francesi. Però devo dire che la nostra cultura, educazione, eccetera, sono diverse. E di questo me ne rendo conto sempre di più, venendo spesso in Italia. Non vorrei cadere nei soliti stereotipi, però ascoltando le tue trasmissioni mi rendo conto che le donne spesso dicono di cercare un tipo di uomo che sembra essere diventato raro. Un uomo buono, solido, responsabile e via dicendo. Ma una donna potrebbe anche innamorarsi di un uomo tutt'altro che buono, no? Ci sono alcune cose che non capisco bene. Sarà forse una questione di tradizione in Italia. Ad esempio, come mai si può ancora vivere dai propri genitori a più di 30 anni, che si sia fidanzati o meno? Perché c'è sempre una grande pressione familiare intorno alla scelta del compagno o della compagna. Perché la persona con cui alla fine andrai a vivere deve anche piacere alla tua famiglia?